Benvenuti, questa è Radio X Network, io sono Dario, qui con me c'è Federico Magni che è il nostro... Ciao a tutti! E dovrebbero esserci altre due persone che sono quei due imbecilli dei miei amici, ma non sono ancora arrivati purtroppo, e quindi per ora vi lasciamo questa canzone che è dei Souls of Mischief, Drivers Wanted. Cazzo, ma qui non arriva ancora nessuno, porca miseria. Sì, chi è? Sono DJ Cava? E che cazzo vuoi? Ma che cazzo è sta merda? Che cos'è sta canzone? Che cos'è sta roba? Ma che schifo. Che schifo. Oddio. Che schifo! Che schifo! Cos'è che vuoi? Oh? Ma fai schifo, fai! Ma che cos'è sta roba? Ma da dove cazzo è uscita? È la canzone dell'anno, ma che qua. Merda! Ma sapete dov'è? E che cazzo ne so io? Stava male, boh. Magari dopo lo contattiamo via satellite, perché noi qua abbiamo i mezzi importanti, eh. Cos'è? È la prima volta che andiamo in radio e non c'è Sabino. È un coglione, che cazzo ti devo dire? Io donne, che cos'è? Regista, basta dopo. Basta, questi loop. Non esageriamo, per favore, perché... Basta, basta. Ma che cos'è? Basta. Basta. Ferma.